Tutti convocati weekend con Giovanni Capuano. 800 24 0024 per le vostre telefonate dirette, in diretta ne aspetto tante. 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete seguirci su Twitter @ tutti convocati. In una domenica che dice che c'è la Juventus in cima alla classifica con il Napoli, anche se bisogna aspettare questa sera la Roma, dice che questa è stata la prima vera domenica d'autunno con pioggia un po' ovunque. A Trieste si è giocato praticamente in una mezza piscina, ha piovuto molto anche a Firenze, siamo nell'ultimo giro del mondiale di ciclismo, ci andremo per seguire questi ultimi 15 chilometri, seguiremo la finale del volley, avremo tantissime sorprese, arriva anche il mio compagno di quest'inverno, Pierluigi Pardo, doveva essere già qui, poi vediamo. 800 24 00 24, adesso però la nostra prima pagina. E ci eravamo lasciati 3 giorni fa parlando di Preti e della sua bandierina, siamo ancora lì, un altro gol, un'altra bandierina, questa volta rimasta giù invece di salire, in un derby che vince la Juve e che il Toro non riesce più a fare suo da 18 lunghissimi anni. Soliti saltatori nell'area di rigore, il pallone va sul palo di Bonucci, di testa poi Pogba! Paul Pogba sul rimpallo, fa 1-0 per la Juve! Derby davvero brutto, arbitri in rodaggio non solo a Torino, assistenti in rodaggio non solo a Torino, allenatori, beh, sentiteli voi. Quindi sai, a volte le decisioni sono a favore, a volte a sfavore, fosse stata quella combinata quell'espulsione, sai, il Torino avrebbe giocato per tutto il tempo in 10, non so come sarebbe finita la partita. Ripeto, spero che non sia irregolare, perché sennò sarebbe un'altra situazione difficile da commentare. No, sicuramente è regolare, adesso lo vediamo. Irregolare? Sì, irregolare. Oh, yeah. Juve 16 punti come il Napoli, la migliore mi sembra fin qui nel gioco del turnover. Veramente lo che si può fare quando si fa così è perché ho fiducia in altri giocatori. Sapeva che Pandev è un giocatore importante, e Duan oggi la prima partita ha creato spazio per lui. Devo essere coerente con questa idea di usare la rosa, fare la rosa più forte. Sotto il diluvio a Trieste, Mazzari col Kiwi, niente giacca gettata via, niente maniche di camice e niente vittoria per l'Inter, malgrado Icardi. Tocco per Nagatomo, posizione regolare Nagatomo, dentro Icardi! Ci sarebbero altre storie da raccontare, ma questa sera c'è la Roma e la sensazione di un campionato che corre veloce in testa rende un brodino quello servito da Birsa, il vecchio diavolo, in una notte che sarebbe meglio dimenticare, però per altro, non per la sua prima. Partita di Robinho, palla al limite, attenzione, Birsa, rete! Birsa, primo gol col Milan, al primo minuto del secondo tempo, si sblocca il risultato. Cori, polemiche, fuorigioco, la consolazione è che anche gli altri si arrabbiano come noi, a volte pure peggio. In più noi abbiamo che in questa domenica, questa prima domenica di pioggia, siamo qui a sognare a occhi aperti. Sogniamo un oro nel volley che manca dal 2005 in Europa e sogniamo la maglia iridata del ciclismo. A Firenze ha piovuto, ha diluviato tutto il giorno, ora splende il sole e speriamo che l'acqua non si porti via il sogno di dare un erede a Ballan, Varese 2008. Tutto solo Alessandro Ballan, 250 metri, nessuno può più fermarlo. Vai Alessandro, grande Alessandro, si volta, non c'è nessuno. Tutti convocati. E grande anche la nostra nazionale a Firenze, tra qualche minuto andiamo da Pier Augusto Stagi. 800 24 0024, voglio sapere che cosa ne pensate di questa domenica. Io saluto anche l'altro compagno di viaggio, buon pomeriggio Carlo. Ciao Giovanni, buon pomeriggio. Ma dov'è Pierluigi Pardo? Ma non lo so, io doveva essere qui alle 5 e vediamo. Chiamo chi l'ha visto? Proviamo. Chiamo chi l'ha visto? Sarà con Ficcadenti. No, sarà con Giampaolo. Sarà no? Con Giampaolo, scusa. Sì, noi siamo comunque qui fino alle 7, 800 24 0024. Carlo, che ne pensi di questa domenica pomeriggio in attesa dei verdetti del ciclismo, del volley? Sì, io non avrei fatto sentire Ballan, Giovanni, perché poi se la prendono con me perché sbagli i pronostici, ma ovviamente spero di vedere una maglia azzurra in cima al podio a Firenze. Ma detto questo, penso che domani sarà dura, perché la Juventus ha vinto il derby, gol di Pogba con Tevez in fuorigioco, dunque due su due a stretto giro di posta in quattro giorni, direi che domani sarà duro arginare, ma anche per te credo sarà duro arginare le polemiche che arriveranno. Sì, anche se io non vorrei, caro, 24, sì, 800 24 00 24, io non vorrei parlare di arbitri oggi, anche se secondo me è stato un mezzo disastro, non solo a Torino si è visto davvero di tutto sui campi della Serie A. Intanto c'è un Nibali straordinario che prova a scappar via con Rodriguez, qualche secondo di vantaggio sul resto del gruppo e siamo alle fasi decisive. Parleremo anche di altro. Mi sembra che il primo mezzo passo falso vero dell'Inter e in parte anche della Lazio delinei questo duello tra Juventus e Napoli, poi c'è la Roma che è il terzo incomodo e in questo momento merita la posizione dove si trova, però l'Inter secondo me ha buttato via due punti. Sì, l'Inter ha buttato via due punti probabilmente, però è anche vero che a questa squadra non si può chiedere la luna, no? Ha giocato su un campo, vabbè, sul solito campo strano neutro del Trieste, con tutte le parole che di Mazzarri, che dice non possiamo giocare in 72 ore, ma ormai in tutta l'Europa si gioca a questi ritmi, non solo l'Inter. Sì, ha cambiato mezza squadra l'Inter per affrontare questo impegno ravvicinato. Ma per me è quello che dà fastidio a Mazzarri, perché non è mica stupido, lui sa benissimo che come a Napoli all'Inter in questo momento serve giocare con 11 titolari e gli altri sono riserve, questa è la forza dell'Inter in questo momento, quindi essendo costretto a cambiare mezza squadra ha spostato un po' il tiro dell'attenzione sul fatto che la sua squadra ha dovuto giocare a breve distanza dalla partita con la Fiorentina. Però Mazzarri sa meglio di tutti noi che in questo momento l'Inter ha bisogno di giocare con gli 11 titolari, quindi non la vedo tanto come due punti buttati, ma come un punto guadagnato oggi con il Cagliari. Sì, assolutamente. Poi c'è la Juventus che si conferma non bellissima come quella degli anni scorsi, però continua a vincere, anche questo rischia di diventare un discorso secondo me ormai anche un po' stucchevole in questo inizio di stagione. La Juventus è questa, non ci possiamo fare... Chi è? Proviamo. Ah, è Pierluigi, proviamo a vedere dov'è. Sentiamo. Se almeno risponde al telefono, la convocazione era per le 17:05 in punto. Vodafone. Niente, ci riproviamo però, Carlo. Ti chiedo ancora 30 secondi di pazienza. Traffico. Sì. Facilissimo, semplice, semplicissimo. Tutti convocati. 800 24 00 24 per i vostri interventi in diretta. Io andrei, Carlo, però subito a Firenze, perché mi sembra che siamo nel momento decisivo del mondiale. Pier Augusto Stagi, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a voi. Esattamente, siamo ormai alle battute finali, siamo per un chilometro, i corridori arriveranno in via Salviati, lo strappo di via Salviati che con ogni probabilità deciderà questo campionato del mondo. Al momento un uomo solo è al comando, è un corridore spagnolo, il suo nome è Joaquin Rodriguez, che ha circa 7 secondi di vantaggio su un terzetto compesto da Costa, Valverde e il nostro Vincenzo Nibali. Estremamente efficace, estremamente importante azione portata da Michele Scarponi nelle fasi conclusive sullo strappo di Fiesole. Scarponi ha fatto la selezione, a quel punto poi è partito Nibali con a ruota Joaquin Rodriguez. Stranamente in discesa Joaquin Rodriguez ha guadagnato qualche centinaio di metri su Vincenzo Nibali, che è rimasto in compagnia di Costa e Valverde, e adesso vi diremo sullo strappo di via Salviati se saranno in grado. Vedremo sullo strappo. Mi sembra Pier Augusto che sia, e poi ti do appuntamento tra qualche minuto, che sia una situazione forse ideale per Nibali, come potevamo sperare di disegnarla alla vigilia. Anche se lui è caduto, ha dovuto inseguire, sicuramente stanco. No, diciamo che è riuscito a medicare una situazione estremamente difficile, sta facendo un grandissimo mondiale, comunque vada, però non è nella posizione ideale, perché Joaquin Rodriguez, tanto per fare un nome, Costa e lo stesso Valverde, tutti e tre sulla carta sono più veloci di Vincenzo Nibali, quindi Nibali ha solo una possibilità, nello strappo di via Salviati, cercare di staccarli tutti e tre e involarsi tutto solo verso il traguardo, se no difficilmente per lui conquistare la maglia. Va bene, Pier, resta lì perché siamo negli ultimi 5 chilometri, lo strappo è iniziato, quindi qualche minuto e torniamo da te a Firenze per capire come finisce questo mondiale. 800 24 00 24. Carlo, per chiudere, cosa ti aspetti dalla Roma questa sera? È davvero una prova di maturità questa partita contro il Bologna? Può dire qualcosa del futuro della Roma in questo campionato? Sì, certamente può dire qualcosa, però la Roma più va avanti la serie dei risultati positivi, più aumenta la pressione sulla Roma, quindi è molto corretto dire che esame di maturità, perché la partita in sé insomma vede favorita la Roma di sicuro, però sappiamo bene come la pressione a Roma sia tanta e ad ogni risultato, ad ogni vittoria, ad ogni risultato positivo aumenti questa pressione, quindi sarà estremamente indicativo vedere la partita di questa sera, perché potrà dirci molte cose sulla squadra di Garcia, che fino adesso è stata la cosa probabilmente più bella del campionato, perché più sorprendente, certamente a quei livelli. Assolutamente impronosticabile. Ma Giovanni, ma di che su due ruote oggi ha vinto anche Marquez, c'è stato anche la MotoGP, primo Marquez, secondo Lorenzo, terzo Valentino Rossi, è finito per terra Pedrosa, è finito, io lo annuncio, il mondiale, 39 punti di vantaggio di Marquez su Lorenzo, che ha detto che a questo punto il titolo è difficile, molto molto molto difficile, so che tu la pensi diversamente, però così è, si correva ad Aragon. Grazie Carlo. A te e a voi. Ciao a tutti, a domani. Cercami Pardo, per favore, che la domanda è questa: dov'è Pierluigi Pardo? Dov'è Pierluigi Pardo, che poi domani è ancora convocato alle 14, ma insomma domani ci sono grandi novità, poi le raccontiamo. Saluto Vittorio Reggia, direttore del Tutto Sport. Buon pomeriggio, direttore. Pomeriggio a voi. Reduce, questo è il mio parere, da uno dei più brutti derby degli ultimi anni tra Juventus e Torino, per qualità di gioco espressa. Assolutamente sì. È una partita che non rimarrà nella memoria collettiva né dei tifosi della Juventus né di quelli del Torino, un derby brutto, grigio come è la giornata oggi a Torino, spettacolo proprio ridotto all'osso, emozioni ridotte all'osso, ha vinto la Juve con un gol farlocco, il Toro non ha fatto niente però, né per vincere né neanche per pareggiare, per cui io credo che alla fine, insomma, più o meno sia giusto così, una grande delusione in assoluto comunque. Certamente, hai parlato tu del gol farlocco, un gol che andava evidentemente annullato perché è viziato da una posizione di fuorigioco di Tevez prima del tapin vincente di Pogba, quanto se ne parlerà secondo te? Perché veniamo da una settimana, lo abbiamo detto, che si era aperta con la bandierina di Preti a Verona, il gol di Paloschi, altre polemiche. Guarda, se ne parlerà, io credo che però già negli spogliatoi non se ne è parlato tantissimo, penso che ci sia una grande differenza tra l'errore commesso mercoledì a Verona e l'errore di oggi. Oggi era una situazione molto più difficile da leggere, c'erano tanti giocatori in area, insomma non era facile, Tevez era coperto, al di là del fatto che comunque fuori gioco c'è ed è inutile negarlo. Il Torino è stato penalizzato insomma in questo inizio di campionato in maniera abbastanza netta, non dimentichiamoci il gol di Bergamo con un giocatore davanti a Padelli, il primo gol, la situazione particolare di Toro Milan, quella di oggi. Devo dire che poi però io credo che in assoluto queste situazioni nell'arco del campionato si vanno a compensare. Quello di oggi è un errore, non mi pare un errore gravissimo, insomma un errore sesquipedale da cartellino rosso e da matita rossa, sì. È un errore, ecco. Sì, diciamo, parafrasando le parole di Conte, certamente meno eclatante di quello di Verona, del gol di Paloschi. Direttore, per chiudere, detto detto che Tevez è in forse per la Champions League, perché tra gli errori del sestetto arbitrale c'è anche una mancata espulsione di Immobile, che a momenti faceva fuori la caviglia dell'argentino. Ti convince questa Juventus, che oggi comunque non ha preso gol, cioè è in una fase in ogni caso di crescita, guarda, da cui deve passare? Io ti dico che la Juventus oggi ha preso gol, non ha preso gol perché il Torino non ha mai cercato di fare gol, quindi diventa complicato prendere gol quando hai di fronte a una squadra che sostanzialmente rinuncia a giocare, rinuncia a offendere, addirittura quando si trova poi in svantaggio. Io credo che la Juventus non stia attraversando un grande momento di forma, ha molti giocatori che non sono al massimo della brillantezza, credo che oggi sia venuto fuori che il turnover è importante, ma l'assenza di Pirlo, anche di questo Pirlo che non è più tirato a lucido, pesi molto per la Juventus. Oggi la manovra della Juventus era prevedibilissima contro un avversario che non ci concedeva spazi, magari con qualche lampo di Pirlo, con qualche sua giocata, probabilmente il compito della Juventus sarebbe stato più semplice. Sì, l'ha detto anche Conte, Pirlo è semplicemente insostituibile in questo momento, Pogba deve crescere se vuole occupare quel ruolo, quella zona del campo. Sono assolutamente d'accordo con Conte, che ne sa sicuramente più di me perché li allena tutti i giorni. Il turnover è indispensabile, ma io credo che questa Juventus non sia ancora pronta, non sia ancora matura per fare a meno di Pirlo e degli equilibri che garantisce Pirlo, anche se non è più il Pirlo di 2 anni fa. Detto questo, non mi pare che sia una squadra in crescita, credo che le ultime 3 vittorie siano figlie di tanta sofferenza e probabilmente la forza, la grandezza di questa squadra sta proprio nel riuscire a vincere quando ha dei problemi e quando non è brillantissima. Io credo che la situazione non possa che migliorare per la Juventus, adesso non mi pare una Juventus in grande spolvero. Va bene, grazie direttore. Grazie a voi. Grazie a Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Subito a Firenze, siamo nell'ultimo chilometro, Piero Augusto. Sì, anzi l'abbiamo superato, siamo ai 700 metri, ormai è un duello tra 2 corridori, Joaquin Rodriguez e Alberto Rui Costa, portoghese. Rui Costa si riporta sotto Joaquin Rodriguez in questo momento, aveva circa 150 metri di vantaggio il corridore spagnolo, che ha approfittato di, diciamo, lotte interne tra Nibali e Valverde, che nessuno dei due volevano tirare, i due ne hanno approfittato, cioè Rodriguez e Alberto Rui Costa si guardano in faccia, si guardano anche alle spalle per vedere dove sono appunto Valverde e il nostro Nibali. Per noi sarà veramente dura riuscire a portare a casa oggi una medaglia, ed è un peccato perché Nibali è stato uno dei grandi protagonisti di questo campionato mondiale. Ricordiamo che tra l'altro Vincenzo Nibali è stato penalizzato negli ultimi giri anche da una caduta, ma è stato estremamente bravo e lesto a tirarsi su. Ed eccola qui la volata. Allora, siamo alla volata. Alberto Rui Costa, sono spalla a spalla, Alberto Rui Costa, e vince il titolo mondiale lo portoghese Alberto Rui Costa. Quindi il Portogallo si veste di iridato, secondo Joaquin Rodriguez, terzo e Valverde. Terzo Valverde e quarto il nostro Vincenzo Nibali. Grazie Pier, poi ci sentiamo dopo le 18:30 che facciamo il bilancio con un po' più di tranquillità di questo mondiale fiorentino. Grazie Pier Augusto. Grazie a voi. Andiamo a Sky Sport, c'è Mazzarri che sta parlando a Trieste. Quindi gli ho fatto i complimenti proprio alla fine della partita. A differenza di lui non l'ho citato prima nella conferenza, invece lui parla di altri e poi parla senza essere sicuro di quello che dice, perché come dice lui la matematica è proprio un'opinione. Sta parlando di Montella, poi ve lo facciamo sentire. Se vuole essere preciso, l'Inter non è al secondo posto nella classifica in questo momento degli ingaggi, ma è al terzo, quindi ha sbagliato. Poi sarebbe polemica. Altre cose, che l'Inter nel giro di 2 anni da 190 milioni è 80 milioni, che c'è squadre che la superano già di tanto, che è un processo inverso alle squadre che non hanno vinto nulla e cercano di adeguarsi all'alta classifica aumentando gli ingaggi. L'Inter sta facendo un processo veramente all'opposto e questo deve essere, se si vuole analizzare con correttezza. Poi se si vuole fare per pizzicare gli altri e non guardare soprattutto in casa propria, faccia come vuole. A me fanno impazzire quando fanno la classifica del monte ingaggi. Poi vi facciamo sentire Montella oggi, che non le ha mandate a dire a Mazzarri. Difatti Mazzarri, che secondo me è anche un po' arrabbiato per come è andata a finire questa sfida contro il Cagliari 1-1, l'Inter sentiva di avere in mano i 3 punti, alla fine si è trovato soltanto con 1 punto. Sentiamo intanto Nibali, Rai Sport. Non posso male loro, niente da dire. Grazie a Vincenzo Nibali. Nibali, che mi sembra anche lui deluso per l'epilogo, hanno corso male loro, credo si riferisse agli spagnoli che sono arrivati in quella volata finale praticamente con due uomini, e alla fine ha vinto il terzo incomodo il portoghese Rui Costa, che è il nuovo campione del mondo di ciclismo, lo abbiamo detto. Dopo le 18.30 torneremo a Firenze da Pier Augusto Stagi per parlare in maniera un po' più diffusa di come è stata questa giornata, prima sotto la pioggia, poi con il sole. Ma Nibali è arrivato solo quarto. 800 24 00 24 per le vostre chiamate in diretta, ci sono già prenotati Antonio da Napoli, Simone da Verona, noi però dobbiamo fermarci per meteo e pubblicità. Ma la libidine è qui, amore, sole, whisky, sei in pole position. Tutti convocati. 800 20, sentiamo. Non risponde, è sparito nel nulla Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, noi ci proviamo ancora, sentiamo. Niente. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Antonio da Napoli, eccomi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Convocatissimo. Sì. Voglio dire, io ho sentito all'inizio che non si vorrebbe parlare di arbitri. Sì. E a noi farebbe piacere sentirne parlare. Però dica. Mi sembra che sia inevitabile farlo, dal momento che poi ho sentito anche che si parla di errori russi con la matita rossa, e che in fondo nell'ambito di un campionato gli errori poi si equivalgono. Questo vuol dire che, siccome è fuori di dubbio che sono stati regalati 4 punti alla Juve in 6 giornate, vuol dire che tutte le altre squadre avranno un regalo di 4 punti, così si equivalrà, gli errori si equivarranno. Io trovo che la situazione sia allucinante, di una gravità spaventosa, dal momento che il nostro è un campionato che si aggiudica anche per un solo punto. Parlare di 4 punti in 6 giornate è una cosa che... D'altra parte, siccome si tratta di assegnare gol su fuorigioco, dove ci sono 2 tecnici, l'arbitro e il guardalini, che dovrebbero vicinare, è assolutamente inqualificabile e incomprensibile. Queste cose, siccome tra l'altro muovono milioni di euro, evidentemente non sono assolutamente né spiegabili né perdonabili, Antonio, né qualificabili come errori rossi. Antonio, noi gliel'abbiamo fatto dire, io sono più Grazie. Dell'opinione di Vittorio Reggia, alla fine più o meno le cose si sistemano, perché nell'arco di 38 partite gli errori capitano. Certo, questa settimana la Juventus è stata particolarmente fortunata con le bandierine, lo abbiamo detto, siamo qui, non abbiamo nessun problema a ripeterlo. Bisogna dire anche per onestà che il Torino poteva restare in 10 a metà del primo tempo, perché l'entrata di Immobile su Tevez era da cartellino rosso, e allora forse avremmo raccontato una partita ancora diversa. Io non parlerei di arbitri, però se voi volete noi siamo qui. 800 24 00 24 Simone da Verona. Buonasera, prego. Mi dispiace, anch'io volevo parlare di arbitri. Dica. Semplicemente per il fatto che il campionato italiano sta perdendo sempre più credibilità, dal momento che in una settimana la Juventus, chiaramente, come ha detto il telespettatore di prima, ha ricevuto 2 grossi favori arbitrali. Se questo poi andiamo a vedere in Europa cosa accade, penso che la veridicità del valore delle squadre italiane si misura in Europa. La Juventus stessa, che in Italia stravince, a volte anche grazie a favori arbitrali, che non vengono mai compensati, perché è inutile che stiamo qui a dirlo, squadre come il Chievo, il Bologna e il Parma ricevono penalizzazioni da un punto di vista arbitrale continuo, come è stato il Chievo, ma la Juventus di rado riceve una penalizzazione arbitrale. Poi quando sì, va a però, giocare in Europa... Però, però Simone, non capita solo qui, io la invito a dare un'occhiata a che cosa è successo questa settimana in Spagna per il calcio di rigore farlocco al Real Madrid a Elche. È scoppiata una vera e propria guerra di religione, non solo fra tifosi, fra club, ma anche fra giornali, fra televisioni. Non siamo solo noi che poi ce la prendiamo per gli arbitri. Io poi ripeto, resto convinto che in linea di massima i campionati siano regolari. Ci siamo lasciati alle spalle altre cose, ci si augura di di non tornarci, se non per mettere un punto e ricostruire dal punto di vista storico che cosa è successo veramente in quel periodo. La Juventus ha goduto di un paio di favori, non mi è piaciuto Conte a Verona quando ha minimizzato e comunque ha attaccato i giornali, le televisioni, in un contesto in cui per primi l'allenatore e i dirigenti del Chievo avevano mostrato grandissimo fair play. Non mi è piaciuto lì, mi è piaciuto molto di più oggi il dopo derby, anche se so che se ne parlerà e non poco anche da domani. Ma allora, a proposito di Conte, proviamo a sentirlo, Conte, dopo il derby vinto 1-0, Conte. Mi hanno detto che il gol c'era Tevens fuori gioco. Bisogna anche dire che prima eravamo stati sfortunati perché c'era l'espulsione di Immobile su Tevez. Con Tevez ha rischiato la caviglia, cioè, un taglio profondo, non so se bisogna suturarla, speriamo, ecco, anche di averlo mercoledì. Quindi sai, a volte le decisioni sono a favore, a volte a sfavore. Fosse stata quella combinata, quell'espulsione, sai, Torino avrebbe giocato per tutto il tempo in 10, non so come sarebbe finita la partita. 800 24 00 24, Angelo da Torino, buonasera. Buonasera a tutti e buonasera soprattutto ai miei amici juventini che questa sera hanno 3 punti in più. Sì, tifoso Granata, immagino, mi pare di capire. Arrabbiato. No, devo dire la verità, io la vedo un pochettino più ampia. Bisognerebbe aiutare gli arbitri, bisognerebbe aiutarli con la tecnologia. È un pensiero che ho da tanto tempo, io credo che non farebbe male neanche ai signori delle televisioni, che potrebbero infarcirla di pubblicità, questo appunto, questa moviola, che stiamo portando il calcio senza tecnologia a fare la fine di quello che è un'esibizione, il wrestling. Francamente, se vuoi bene al calcio, hai piacere anche di qualcosa di sicuro, di rivedere una cosa e magari la rivedono anche gli stessi tifosi che stanno guardando la partita in diretta. Sì, su una situazione chiusa, Angelo, come può essere, come possono essere ad esempio i 2 episodi che hanno interessato la Juventus, oppure il gol non gol, anche se qui si sta tentando di porre rimedio con la tecnologia, effettivamente qualcosa si potrebbe fare, anche perché io continuo sempre più ad avere il sospetto che in realtà noi la moviola in campo ce l'abbiamo già. Vi racconto cosa è successo oggi a Bergamo, per chi non l'ha visto: 1-0 per l'Atalanta, c'è su un traversone una trattenuta a Danilo, giocatore dell'Udinese, che va giù, Giacomelli fischia il calcio di rigore, ammonisce Stendardo per la trattenuta, c'è qualche protesta, poi tutti escono dall'area di rigore, Giacomelli fa mettere il pallone sul dischetto, Di Natale pronto a battere, è passato quasi un minuto, a quel punto si accorge che l'assistente, che però inizialmente era rimasto con la bandierina bassa, vuole parlare con lui, il conciliabolo va avanti altri 2 o 3 minuti, alla fine calcio di punizione per l'Atalanta perché Danilo era in fuorigioco ed era effettivamente in fuorigioco, ammonizione per quelli dell'Udinese che protestano, insomma non lo so, a me ha lasciato perplesso, detto che alla fine la decisione di Giacomelli è stata quella corretta. Grazie Angelo. Moreno dalla provincia di Milano, buonasera. Sì, buongiorno, buonasera. Prego. Sì, ragione lei, buonasera. Io volevo fare una considerazione sul fatto che oggi a Torino arrivavamo a stento a 20.000 spettatori. Sì. Quando circa 20 anni fa ce n'erano più di 70.000 al comunale, io ci andavo perché vado allo stadio ancora adesso. Secondo me il numero di oggi è risultato tra Pay TV, praticamente tessera del tifoso, biglietti nominali, orari assurdi, praticamente è stato partorito il derby di oggi con lo stadio praticamente vuoto. Sì, oggi non è stato bello vedere il comunale, o meglio il vecchio comunale, oggi si chiama Stadio Olimpico, non esaurito, e stiamo parlando di uno stadio che credo faccia 22-23 mila posti vendibili. C'erano delle ragioni di sicurezza per cui una fetta è stata tenuta libera come cuscinetto fra le 2 tifoserie, però effettivamente sono rimasti anche tanti biglietti invenduti. credo, scusate, che questa mattina fossero ancora 5.000. Non lo so, ha ragione, sicuramente è un problema legato alla grande offerta televisiva, è un problema legato alla crisi. A me è impressionato anche vedere San Siro ieri sera, li avete visti i dati, il Milan ha poco più di 23.000 abbonati, è il record negativo storico dell'era Berlusconi e non c'è stato nemmeno l'effetto Kakà, cioè quell'effetto che Galliani sperava riportando il brasiliano a Milanello, e cioè il ritorno di almeno una parte dei 15.000 tifosi che nel 2009 stracciarono la tessera e non l'hanno più rifatta, non l'hanno fatta nemmeno oggi col ritorno di Kakà. Ho l'impressione che il calcio italiano debba interrogarsi e molto su questa vicenda. Corrado da Torino, buonasera. Buonasera. Prego. Io sono ovviamente un tifoso granata, ma non parlerò del rigore del gol irregolare regalato alla Juve. Io mi sto chiedendo e vi chiedo per quale ragione il Ministero degli Interni non ha ancora imposto la moviola in campo, perché penso che sia l'unico sistema per evitare questioni di disordine. La gente si incazza quando vede queste cose, alla fine poi si arrabbia. Allora, se la questione viene risolta dopo un minuto, un secondo, cioè ne guadagnerebbe il calcio e finirebbero tutte le motivi di irritazione da una parte e dall'altra. Poi la squadra dall'altra parte non la nomino per ovvi motivi, ma avrebbe anche il piano. Se fosse l'avvocato direbbe: oggi abbiamo avuto un po' di fortuna. Però dall'altra parte, insomma, non sono all'altezza di riconoscere che sono stati favoriti. Andiamo avanti così. C'è un bellissimo articolo di Travaglio sul presidente della Juve, andatevelo a leggere. Sì, un articolo molto contestato dai tifosi della Juventus, non l'ho letto, dico la verità, però so che se la prendeva, da quello che ho capito, con lo stile della nuova Juventus, con lo stile dei nuovi Agnelli paragonato a quello dell'avvocato e della vecchia generazione degli Agnelli. Però sull'ordine pubblico, Corrado, tornando alla sua domanda, io le rispondo con una provocazione. Si figuri che quando parliamo di cori razziali, di discriminazione, di tutto quello di cui abbiamo parlato anche qui nelle scorse settimane, vale più il referto dell'ispettore della Federcalcio del referto finale che fanno gli uomini della Digos presenti allo stadio. C'è un'autonomia assoluta della giustizia sportiva, è da un certo punto di vista una tutela importante per il calcio e per lo sport, e quindi così deve essere. Però si figuri se il Ministero dell'Interno può imporre la moviola in campo alla FIFA, neanche alla Federazione Italiana, per motivi di ordine pubblico. E poi io sono anche convinto che le cose che succedono negli stadi non succedono per un calcio di rigore, c'è dietro dell'altro, e ce lo ha dimostrato anche quanto accaduto ieri sera a San Siro, o meglio fuori da San Siro. Grazie comunque. 800 24 00 24, ci fermiamo, c'è il traffico. E la fotografia, questa è un po' della partita di una squadra in cui manca il Van Persie di turno, l'Higuain di turno, cioè l'attaccante da 40 milioni. No, guarda, lascia stare questi discorsi, dai. È un'altra domanda più intelligente. Tutti convocati. È normale, dicevamo adesso, se Vincenzo si presentava in queste condizioni. Questo è Bettini, su Rai Sport, sentiamolo. Se l'ultimo giro lo avrebbe portato via, sarebbero arrivati in due. Magari avrebbe anche perso, ma se la sarebbero giocata loro. Normale, la caduta che ha fatto un gran numero per rientrare. Io risalivo con la macchina e non lo trovavo, l'ho trovato che era già praticamente accodato al gruppo. Immaginate lo sforzo che ha fatto dopo la giornata che è stata. Sono sincero, senza criticare nessuno, preferisco aver fatto ancora una volta medaglia di legno che aver perso come ha perso la Spagna. Qui non ci piove sopra. Sì, c'è un po' di delusione nella spedizione azzurra a questo Mondiale di Firenze. C'è chi dice, anche Pippo Pozzato, è stata una delusione. Sebastiano al 349-238-6666, io non lo so se Pozzato è stata una delusione, so che alla fine più o meno ogni nazionale punta soltanto su un uomo, quello italiano, l'uomo giusto era Nibali, e poi nel finale sono tanti i fattori che entrano. A proposito della questione arbitrale, sta parlando con Antuono a Bergamo, sentiamolo. Guarda, questo è molto complicata la cosa, perché è vero quello che dici tu, è vero anche che quando parte la palla Danilo è davanti a tutti, poi sicuramente c'è la strattonata di Stendardo. Ora un po' hanno cambiato queste cose, se quello che dici tu è vero, ci può stare, però Danilo effettivamente quando parte la palla è un po' davanti a tutti, la palla poi scorre, va lontana da Danilo. Sono interpretazioni del momento, che ti dico, non è facile dare un giudizio da questo punto di vista, anche perché quest'anno tra le altre cose hanno cambiato anche un po' le regole, quindi anche i giudici di linea sono un po', come si dice, devono stare molto più attenti, gli hanno un po' complicato il lavoro, diciamo. È una situazione al limite, secondo me si può dare o non si può dare. Sì, c'è una grandissima confusione, ha ragione Colantuono. Tra l'altro Sky sta misurando in secondi quanto è passato tra la prima e la seconda decisione, diciamo 88 secondi, ma in realtà poi sono andati avanti ancora a lungo, c'è stata tantissima confusione. Sono anche curioso di vedere se sul referto viene cancellata l'ammonizione per la trattenuta di Stendardo a Danilo all'interno dell'area di rigore, perché a questo punto è stata effettuata tecnicamente a gioco fermo. Gerardo da Treviso, 800 24 00 24, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io volevo intervenire in merito all'arbitro Mazzoleni. Sì, Juve Torino. Questo, esatto, noi ce lo ricordiamo bene la notte di Pechino, noi napoletani. Sì, anche se io devo dirle, Gerardo, so che lei non è d'accordo con me, ma quella sera Mazzoleni non decise nulla, il Napoli si suicidò con le sue mani a partire da Pandev, però prego. Va bene, Pandev può aver detto cose, poi dopo ne ha sentite altrettante da giocatore della Juve, ma ha soprasseduto. No, dico, ma è mai possibile che Mazzoleni, sì, arbitri sempre partite della Juve e puntualmente non manca di fare il favore alla Juve? Guarda oggi, guarda l'altra volta con Rizzoli contro l'anno scorso contro il Catania. Sì, cioè, Mazzoleni ogni tanto sbaglia con la Juve, lei ha ragione. Mazzoleni sembra pure della Juve. Però sa Gerardo cosa penso io, e l'ho anche detto, l'ho anche detto in passato, che purtroppo la Serie A non si può arbitrare con 20-25 arbitri, perché il problema è che poi quando sbagliano non gli puoi dare i turni di riposo, ma magari il mese di sospensione. Le faccio un altro esempio: De Marco è arrivato ad arbitrare e a sbagliare, perché ha sbagliato anche lui a Verona la partita tra Chievo e Juventus, dopo aver sbagliato e condizionato la partita tra Fiorentina e Cagliari, quella del rigore su Rossi non concesso al 90esimo, e dopo aver condizionato e sbagliato la partita tra Milan e Napoli, dove era assistente di porta a un metro dal fallo su Poli, un fallo che obiettivamente poteva essere da calcio di rigore sotto i suoi occhi, non segnalato. Avrebbe avuto bisogno di fermarsi De Marco, non è stato fermato, è finito a fare Chievo Juventus e insieme a Preti ha fatto danni. Io credo che questo sia un problema, Gerardo, più ancora di Mazzoleni e della sua vicinanza alla Juventus. C'è Ranocchia ai microfoni di Sky Sport, sentiamolo. Sì, così, insomma, in campo capita ogni tanto, ma dopo fuori sì, ci si chiarisce, insomma. Chiaro. No, in realtà mi interessava, visto che lei è uno dei difensori più importanti del nostro campionato, capire un po' qual è la sua posizione rispetto a questa nuova regola. Lei ce l'ha chiara o no? Quella del nuovo fuorigioco, posizione attiva, passiva. Glielo chiedo perché... Se dice sì, gli si allunga il naso. Non l'ha capita davvero nessuno, eh? Ci stiamo adeguando, ci stiamo studiando. Sì, ci hanno spiegata, è chiara. Comunque noi difensori corriamo uguale, bisogna correre, quello che ho capito è che comunque bisogna sempre darla per buona. Esatto, così non sbagliamo mai. Sì, non sbagliano mai, pensano sempre che la posizione sia buona, poi a fare i pasticci ci pensano gli altri. Fabrizio da Milano, 800 24 00 24, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Volevo fare un'osservazione da tifoso, ma soprattutto da tifoso di rugby. Si fanno sempre polemiche su Moviola sì, Moviola no, l'arbitro sbaglia, ma perché il calcio non adotta quello che da anni vige nel rugby? C'è un TNO che praticamente su richiesta dell'arbitro rivede le partite, cioè le azioni dubbie, e sostanzialmente su quella base diciamo convalida o non convalida le azioni. Per cui mi sembra davvero che il calcio sia l'ennesima riprova del fatto che comunque gli arbitri devono essere aiutati, ecco. Sì, io sono d'accordo con lei, Fabrizio. Tra l'altro credo non sia nemmeno un problema il fatto che non si può assicurare lo stesso tasso di tecnologia in tutte le partite di tutte le serie. In fondo è già così, tra diverse competizioni ci sono partite con gli arbitri di porta, partite senza, partite con la sestina, ci sono partite in cui c'è ancora soltanto la terna. Però è vero che il calcio fa fatica a cambiare, quindi io ho l'impressione che il passo che è stato fatto sulla tecnologia per il gol non gol rimarrà a lungo un passo solitario, e tra l'altro sono tante le federazioni che stanno anche facendo fatica ad adeguarsi. L'abbiamo trovato, Pierluigi? Eccolo! Dove sei? Dove sei? Sto parcheggiando. Stai parcheggiando, quindi fra due minuti ci siamo. Quindi dai, arrivi dopo il GR. Fra due minuti c'è il GR. Dopo il GR, mi ascolto il GR. Poi, no, domenica tranquilla, zero polemiche. Sì, no? Zero polemiche, zero bandierine. Poi guarda che ne facciamo un'altra di polemica, perché parliamo anche di quello che è successo ieri sera. Io so che tu eri a San Siro, sì. Ti ho seguito su Twitter, so che hai la tua idea su quello che è successo. Io ti dirò quello che è il mio personalissimo podio della vergogna, dal terzo al primo posto, perché io queste cose davvero non le posso capire. Dai, vieni su. Arrivo. GR, lo lanci tu, lancio tu. No, lo lancio io. GR, okay. GR che è fra un minuto. Io però voglio ricordare 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete seguirci su Twitter, @ tutti convocati. Sta per iniziare anche la finale dell'Europeo di volley a Copenaghen, Italia-Russia. C'è Guidolin che mi sembra depresso ai microfoni di Sky Sport, sta osservando quello che è successo all'interno dell'area di rigore. Credo non faremo in tempo a prenderlo, poi vi diciamo che cosa ha detto. Vi diciamo anche che Mazzarri sostiene di essere comunque molto soddisfatto della partita dell'Inter oggi a Cagliari. Avremo però tempo di parlarne. Adesso il GR, poi con noi Pierluigi Pardo. 800 24 00 24. Scusa, non ho capito. Scudetto in francese, come lo traducete? La vittoria del titolo? Non c'è una traduzione. Scusa che non capito, c'è un'altra domanda, non ho capito la domanda. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. È arrivato, ciao Pierluigi, buonasera. È arrivato l'arrotino. C'è a Milano, è arrivato l'arrotino, a Roma c'è. C'è ancora, ma scherzi. È arrivato l'arrotino, signori. Reduce da una domenica pomeriggio. Diretta premium di Cagliari-Inter, partita senza grandi polemiche. Qui si parla di arbitri, eh. Lo so, ti ho sentito in macchina. Torino-Juve è evidente, ci sono stati tanti errori, il gol era in fuorigioco, l'intervento all'Immobile era da rosso, Marchisio ha rischiato il secondo giallo, insomma, che qui se dici una cosa sembra che ce l'hai con qualcuno, invece la realtà è che ci sono stati tanti errori da una parte e dall'altra. Poi è chiaro che in una partita comunque sullo 0-0, bloccata, il gol in fuorigioco, chiunque lo segni fa sì che possano esserci le polemiche. La mia sensazione è che la Juve stesse crescendo nel secondo tempo. Cioè, rispetto a Verona, secondo me era una partita diversa, per come la si poteva immaginare. Cioè, mentre a Verona il gol del 2-1 sarebbe stato veramente pesante, perché eravamo già a un punto di gara di un certo tipo già nel secondo tempo. Sì, la poi soffriva già recuperata. La Juventus. Oggi la sensazione nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, era che la Juve stesse prendendo in mano la partita, però era una sensazione, quindi è chiaro che è un peccato dover parlare di questo e non dover parlare di Pogba, della qualità di questo giocatore, di quello che si è visto, insomma. Sì, anche se oggi mezzo voto in meno a Pogba, ne parlavamo anche con Vittorio Reggio, direttore di Tutto Sport, perché alla fine la Juventus è mancata la regia di Pirlo. Ora, se Pogba è l'uomo destinato a prendere le di Pirlo in cabina di regia magari già dall'anno prossimo, credo che Conte abbia un po' di lavoro da fare. Deve in questi crescere mesi. Però lui è un giocatore dinamicamente straordinario, con una qualità, con un'eleganza, una qualità tecnica e una forza fisica impressionante. Non gli si può chiedere di avere così giovane già l'esperienza e la capacità di regia di Pirlo, cioè mi sembra proprio un altro giocatore e sarebbe veramente sbagliato aspettarsi che possa fare già Pirlo, perché non ha quelle caratteristiche, ne ha altre. La verità è che la Juve in quel reparto è coperta benissimo, perché Marchisio, Vidal e Pirlo, e Marchisio, Vidal e Pogba sono tre giocatori con le stesse caratteristiche, uno più forte dell'altro. Certamente, deve crescere, o comunque la Juventus deve chiedersi eventualmente che cosa fare di Pirlo o del dopo Pirlo. Intanto è iniziata la finale degli europei di volley a Copenaghen, si gioca tra l'altro nello stadio del calcio, scenario avversario meraviglioso, Russia però che è avanti 10-5 nel primo set, però è lunga, siamo appena partiti. Nello stadio dove ha giocato la Juve pochi giorni fa. Nello stadio dove ha giocato la Juve pochi giorni fa. 8-0-0-24, 0-0-24, tu però ieri sera eri a San Siro, adesso lasciamo stare gli arbitri, però parliamo di un aspetto su cui noi battiamo molto qui da questi microfoni. Io ieri sera ci sono rimasto male per quello che è successo in Milan-Sampdoria, dentro, fuori dallo stadio, e allora io ti dico quello che è il mio podio alla rovescia, il podio della vergogna di ieri sera a San Siro. Voglio sapere che cosa ne pensate anche da casa. 8-0-0-24, 0-0-24, io medaglia di bronzo sul terzo gradino del podio, ci metto gli ultra, quelli della curva sud, quelli che sono rimasti fuori. Incommentabili, a parte che l'avevano annunciato, avevano fatto i volantini, li metto terzi solo perché secondo me sono irrecuperabili i 300 che sono stati fuori da San Siro per fare questo, che andassero al bar a vedere la partita. C'è una vecchia sbagliata abitudine quasi di considerare folcloristici questi cori, qui il discorso vale per tutti. Vale per i cori appunto contro Napoli, vale per i cori contro chiunque, da qualunque parte d'Italia, vale per i cori su Pessotto, per i cori su Superga, per i cori su Laisel, per i cori su Paparelli. Cioè, questo è un punto di civiltà complessiva. Non si dovrebbe fare ironia su qualcosa che può provocare del dolore o su del dolore che le persone hanno provato. Questo vale per tutti, quindi probabilmente per troppo tempo e per troppi anni sono stati tollerati comportamenti di questo tipo, non soltanto nei confronti dei napoletani, vale per tutto, in tante situazioni di segno anche opposto sono stati tollerati. Adesso c'è un pugno duro su questi argomenti e ci deve essere una sensibilità completamente diversa. Sì, c'è la tolleranza zero, Piera, anche se io regole così rigide, ma l'ho detto, le ritengo anche stupide, perché rigide. È un dolore, io lo dico sinceramente, è un dolore vedere una curva vuota. Sì, un dolore era spettacolo inguardabile. Perché non so come la pensi tu, ma io non voglio un teatro. A me piace il calcio e mi piace anche l'italiana, mi piace anche con le curve. So che le curve possono essere anche degli straordinari strumenti di aggregazione delle persone, anche di solidarietà, però bisogna comportarsi in maniera civile, tutto qui. Ieri c'è chi ha fatto di peggio però a San Siro rispetto agli ultra che erano rimasti fuori. Secondo me ha fatto peggio chi è entrato a San Siro, 22esimo del primo tempo, senti. Non so come la pensi, Pier, però io non so dirti. Allora, io stavo facendo la telecronaca, ho sentito l'annuncio, ho sentito questi fischi dopo l'annuncio, che io ho interpretato, l'ho detto anche in diretta, come un segno di ribellione della gente nei confronti di queste cose. Mi è sembrata la sensazione che la gente non ne potesse più, poi magari invece era l'esatto contrario. Non lo so. Secondo me era questo. Poi tu sei un esperto della materia, perché bisogna anche capire che cori sono stati fatti, cioè quello che è il limite della rivalità e dello sfottò, perché ripeto, io penso che veramente non è che deve diventare adesso tutto di plastica. Cioè, il fatto che il tifoso del Milan ce la possa avere col tifoso del Napoli e viceversa fa parte del sale della vita e del calcio. Il punto è rimanere in un territorio, in un terreno che sia quello di civiltà, che non sia razzismo, che non sia discriminazione né dall'una né dall'altra parte. Allora, che cosa hanno detto allo stadio? Sì, oggi si è scritto tanto, secondo me hanno scritto anche alcune sciocchezze sui giornali. Si è scritto che il Milan rischia la chiusura di San Siro perché sarebbe la seconda sanzione. Ora risulta che all'interno di San Siro il coro sia stato: noi non siamo napoletani. Se ci siamo fermati qui, io mi sento abbastanza sereno nel dire che, se anche qualcuno lo ha notato sul referto, al Milan non succederà nulla. Diverso sarebbe stato se i cori che abbiamo sentito all'esterno dello stadio fossero stati fatti, fosse stato fatto dentro. Allora, in questo caso cadremo perfettamente nella discriminazione territoriale, e o qualcuno si dimentica di scriverlo, come è capitato a Reggio Emilia settimana scorsa e l'Inter si è salvata, oppure Tosel non può che applicare la tolleranza zero. Però Pier, guarda che c'è qualcuno che merita il primo posto sul gradino più alto del podio. Ieri sera a San Siro, prima però il traffico. Sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. tutti convocati. 800-24-0024, sta andando male all'Italia del volley, sotto 15-7 nel primo set a Copenaghen contro la Russia, finale dell'Europeo. Saluto anche Franco Ordine, inviato del giornale. Ciao Franco. Eccomi qua. Buonasera anche a te. Come va? Pierluigi Pardo. Niente meno. Ciccio, come va? Molto bene? Benissimo, benissimo, benissimo. Però la voce non sembrerebbe. No, non sembrerebbe. Che è successo, Ciccio? Mi raccomando. Franco, sto facendo il mio personalissimo podio delle cose che non mi sono piaciute ieri sera a San Siro e dintorni, i cori fuori, lo striscione, i fischi allo speaker. Io però al primo posto, e voglio che anche tu ci aiuti a capire perché Allegri ha detto quelle parole, io al primo posto ci metto Massimiliano Allegri, che a domanda precisa, ma perché non prendete distanza dalla curva, ha risposto: la curva si è comportata in maniera irreprensibile, gli sfottò sono sempre esistiti, in fondo le cose stanno andando meglio, il tutto in un contesto che sinceramente non lo giustificava. Franco? Ma guarda, io devo dire questa cosa, vi stupirò probabilmente, ma io sono d'accordo con Allegri, e sono d'accordo con Allegri soprattutto per le cose che sono successe ieri. Io non parlo di quello che è successo fuori dallo stadio, tra l'altro io sono arrivato e sono entrato subito, quindi non ho dato un'occhiata a quella manifestazione che mi sembrava più un'assemblea di reduci da chissà quale battaglia in Grecia. Devo dire che invece quello che è successo dentro lo stadio obiettivamente non ha i connotati della manifestazione di razzismo. Devo dire sinceramente, anzi, che la parte del pubblico, diciamo quella dotata di maggiore buonsenso, che alla fine ha fischiato lo speaker quando ha ricordato le implicazioni di carattere regolamentare, segnalano questo umore che io a mia volta vi sottopongo e che secondo me rappresenta una chiave di lettura. Attenti a non trasformare questa battaglia sacrosanta per il razzismo in una cosa antipatica che la gente non capisce e che anzi trasforma la persona intelligente e ben pensante in una persona intollerante, perché ieri a un certo punto dal primo anello cantavano noi non siamo napoletani. Ora, devo dire francamente che questo di razzismo, questa frase di razzismo, questo coro di razzismo non c'ha nulla. No, non è niente, allora, ma Franco... Non ha assolutamente nulla, e anch'io ho interpretato quella, lo dicevo un istante fa, io ho interpretato quei fischi allo speaker come un segnale proprio di gente spazientita che non ne può più di queste questioni. Ecco, poi esatto. Io sono un ottimista per natura, quindi spero sempre del meglio. Noi, Franco, stiamo cercando anche di spiegare, ci esponiamo, che domani secondo noi non succederà niente al Milan, perché noi non siamo napoletani. Per quel che riguarda poi nello specifico la frase di Allegri riferita alla curva, allora diciamo da dove arriva, da dove proviene diciamo il buonismo di Allegri nei confronti della curva? Dall'atteggiamento dell'anno scorso. Una qualsiasi curva di un qualsiasi stadio italiano, di una qualsiasi città italiana, di una qualsiasi squadra italiana, dopo quella partenza sciagurata che ha avuto il Milan, avrebbe cominciato a contestare, avrebbero fatto come hanno fatto a Brescia, che hanno convocato l'allenatore. Sì. Hai ragione, dal punto di vista sportivo allora, è stata impeccabile. Però Franco, scusami. Il comportamento di questa curva, che obiettivamente si è comportata in maniera, diciamo tra virgolette, persino inglese, secondo me va segnalato e va anche lodato. Sì, però la domanda a Massimiliano era diversa, però. Ieri, e c'è scritto sì, oggi sui giornali. Però posso dire, Giovanni, sinceramente, sì, nel post partita non vuole essere un attenuante. Secondo me qui dobbiamo fare tutti un salto di qualità, cioè le società devono impegnarsi, i tifosi per bene devono impegnarsi, dobbiamo superare questa roba, dobbiamo superarla, sì, scusami, scavalcarla Luigi, in positivo, trasformarla in uno... Pierluigi, sì. Ma anche obiettivamente, anche la domanda del mio amico, oltre che collega Alciato, nasconde sempre, come dire, quella vernice di ipocrisia che obiettivamente io considero intollerabile. Ma cosa può fare un allenatore da solo? Che cosa può fare? Allora, diciamoci francamente una cosa, parlando nello specifico del Milan, insomma, il Milan ha dimostrato che quando la curva aveva preso un certo atteggiamento, tipo le minacce per avere i biglietti di Atene, ebbene, l'ha denunciato. Galina è finito sotto scorta per 2 anni e mezzo, quindi allora io direi di non esaminare i fatti. I fatti in questa circostanza, dico, la manifestazione che hanno fatto fuori era da riprendere, perché secondo me questo è un altro dei motivi che noi dobbiamo far diventare metodo giornalistico per mettere a tacere, sì, provare a evitare questa... di dare casse di risonanza. Certo. Franco, per chiudere, stando sul calcio, questa è la settimana dei ritorni, partendo forse già dalla trasferta di Coppa con l'Ajax, c'è qualcuno che rientra? Tornano Balotelli e Montolivo, tutti e due che giocheranno dal primo minuto, torna anche il Sharavi che partirà dalla panchina. Pier, mi sembra già un Milan che così sono segnali di crescita. Io sono abbastanza d'accordo con Allegri quando dice ieri sera contava soltanto il risultato, perché è evidente che la situazione di emergenza con 19 convocati, con praticamente tutta la qualità della squadra che era venuta meno, perché quando tu a questa squadra togli comunque Balotelli, Kakà, Montolivo e il Sharavi, vuol dire che togli tutti i giocatori di personalità e di qualità che possono fare la differenza. Quindi ieri secondo me il Milan non ha rischiato nulla, si potrà discutere sulla consistenza in questo momento della Sampdoria certamente, però insomma è arrivato un risultato che fa molto bene, e adesso però servirà il salto di qualità. È arrivato il tweet di Tevez, te lo segnalo, 2 minuti fa: che lindo ganarmi primer classico con la Juve, esta es la Juventus. Già 131 retweet, insomma che bello vincere. Primo derby. Tra l'altro sappiamo che Tevez è stato sottoposto a degli accertamenti, forse ne hai parlato prima. Sì, rischia la trasferta, contro il Galatasaray di Champions, perché però, insomma, l'entrata di Immobile ha lasciato dei segni. Non dice nulla tipo che dolor, no. No. Proviamo a sdrammatizzare. Sarebbe un problema per la Juventus. Assolutamente, anche perché è un giocatore incredibile, veramente incredibile, Tevez. Grazie a Franco Ordine. Ciao Cic. Ciao Franco, grazie. Intanto Giampiero Gasperini, tornato ufficialmente sulla panchina del Genoa. Posso dire una cosa su questo? Allora, se tu prendi Liverani, per carità, poi se non sbagliamo tu, se non, no, noi non sbagliamo mai perché siamo qui e commentiamo. Però se prendi Liverani, che comunque è una scelta coraggiosa, alternativa, sia dal punto di vista di filosofia di calcio che dal punto di vista di esperienza, ma dagli 2 mesi di tempo, no? Se no non prenderlo, e scegli direttamente un'altra strada, probabilmente rischi di meno. Ma te la posso far sentire una cosa? Certo. Dai, te la faccio sentire. Ha già parlato con Preziosi, si aspetta qualcosa, si sente a rischio in questo momento, insomma questa sa che è una domanda che io le devo fare. Penso che la proprietà deve poter prendere decisioni serenamente, io ringrazierò comunque sempre il Presidente per qualsiasi cosa deciderà. L'Italia è piccola, non avrei creduto a tutto, era tutto finto, era tutto finto. Io neanche fumo più, ho smesso. Bugiardo. Bugiardo. Con questa faccia da bugiardo. Era tutto uno scherzo, sono un bugiardo. Mentre invece io penso che Cliverani va concesso abbastanza tempo, perché deve amalgamare una squadra di mista di giovani. Ballo, mi vesto giallo come il castarro, oh no. Si perdeva anche la terza partita, sarebbero nate subito Liverani in discussione, questo, questo e quello, cose che sono già vecchie e risapute. È un gioco a massacro contro Liverani, quindi sono molto contento per lui soprattutto. Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga, brrr, fibra, fibra. So che i risultati poi fanno sì che bisogna trovare il primo esonero della stagione, ci è andato vicino Gattuso che è un amico, poi c'ero io che siamo i più giovani, almeno per una settimana, 10 giorni, bisogna trovarne un altro. Vivere conosciuto come un gran bugiardo. Ma almeno per una settimana, 10 giorni, poi è saltato Gattuso, poi è saltato Liverani, poi mi chiedo perché ci stupiamo. No, ma non ci stupiamo perché poi a parte che Preziosi e Zamparini, diciamo che sono, no, potrebbero scrivere non le mie prigioni ma i miei esoneri, perché insomma da questo punto di vista sono scatenati. E, insomma, è evidente che però se fai una scelta coraggiosa, perché chiaramente affidare la panchina a un esordiente come Gattuso Liverani è una scelta coraggiosa. E poi devi crederci. Poi devi crederci un po'. Se non ci credi, vabbè, allora di che parliamo? Sergio da Milano, di che parliamo? 800 24 00 24, buonasera. Buonasera. Prego. Ciao. Senta, io volevo un po' andare in controtendenza a quello che diceva lei, perché l'informazione che sta dando... Sì, contenzioso su Milan-Napoli, perché io sono uno dei primi che dice che non, i cori razzisti, anche se quelli li fanno da 25 anni, non significa niente, è giusto anche dargli un taglio. Però le ricordo che i tifosi del Napoli, che erano più di 10.000, hanno urlato Balotelli figlio di puttana per almeno 4-5 volte. No, aspetta, sicuramente, no. Sicuramente censurabile, Sergio, ecco, poi, però non se la prenda grido, così. Scusi un Prego. Attimo, scusi un solo grido, un solo allarme, Milano in fiamme, Milano in fiamme. Ecco, su questo non si indigna, lei si indigna solo su questo. No, no, ma scusate, posso intervenire? Prego, io mi sento parte terza. Dobbiamo fare tutti. La dovete raccontare tutta la storia, non metà o quello che vi pare a voi. Sergio, raccontiamo tutto quello che vogliamo, cioè raccontiamo tutto quello che succede, non se la prenda. Certamente censurabile tutto, poi c'è un confine che è quello della discriminazione, che in questo momento è l'oggetto di questa tolleranza zero, quindi prima, di che parliamo? Io vengo da Roma, che è una città dove hanno cantato sempre Milano in fiamme e per tanti anni sono stati fatti dei cori, l'ho detto, contro Pessotto, contro Superga, contro sull'Aisel, delle cose per tutte le squadre, non ce n'è una che non sia stata mai almeno una volta vittima di questo concetto di discriminazione. Adesso qui sono cambiate le regole, se vogliamo approfittare del fatto che sono cambiate le regole per fare tutti un salto in avanti dal punto di vista di civiltà, secondo me facciamo una grande mossa, altrimenti siamo qui a discutere sugli aggettivi, sulla cosa che ti salva dalla squalifica perché non dici magari un pezzettino della parola per cui il giudice sportivo non può intervenire. La sostanza, secondo me, è che forse dovremmo fare tutti un salto avanti di civiltà. Poi sicuramente anche Milano non è immune, non è esente nella storia da gente che l'ha voluta in fiamme, anche se spero soltanto in degli slogan, in degli sfottò. Invece noi credo che vogliamo bene a tutti, no? Sì, cioè, ecco, poi la sostanza è che abbiamo il derby di Torino con 5.000 posti vuoti, San Siro ieri sera era inguardabile, e non solo perché poi siamo qui a guardare la pallavolo che ci fa sentire italiani e attiva. Come stiamo andando? Perché io ho le spalle e non la vedo. Stiamo andando male, 24-20 per la Russia, set point, però ci stiamo riprendendo. Io credo sarà una serata lunga quella del volley azzurro. 800-24-0024, c'è già Pier da Verona, ma ci fermiamo perché c'è la pubblicità. Tutti convocati. 800-24-0024, intanto abbiamo perso il primo set, Pier, 1-0 per la Russia. Adesso però la novità è che mi sono girato, adesso vedo il televisore. Adesso vedi il televisore. Magari portava sfiga stare girato dall'altra parte. Vediamo perché la vedo dura, mi sembra che la Russia ci stia piallando, anche se nel finale del set siamo rientrati in gioco. Pier da Verona, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io volevo intervenire sul discorso delle curve. Sì. Io penso che ci sia della politica anche nel calcio, perché quando fa qualcosa qualche squadra di provincia viene additata come razzista, quando fa qualcosa qualche squadra di città, qualche squadra tipo Milan, Roma, Inter, non succede mai niente. Io sono un tifoso del Verona, non vado in curva, sono in tribuna, però io le dico una cosa, che a Verona la prima giornata è stato lanciato non un razzo, un fumogeno, e hanno pagato 40.000 euro di sì, multa. Però Pier, io la fermo. Mentre per quanto riguarda quando hanno spaccato il pullman del Verona a Roma, gli hanno dato 5.000 euro di sì, multa. Sì, non è successo nulla. Però posso anche dire che ci sono state quattro curve adesso, sì, a memoria. Roma, Lazio, sospese, Roma, Inter, Lazio, Milan. Quindi, no, però insomma... Io ribadisco, Pier, secondo me dobbiamo fare tutti un salto di qualità, anche perché i disagi, le privazioni della libertà che vivono i tifosi, spesso anche quelli che vanno a fare le trasferte in giro per gli stadi, in stadi che fanno ridere purtroppo, con dei servizi che sono assolutamente inesistenti, questo è un problema che riguarda tutti, che riguarda il piacere di andare allo stadio. Questa cosa dovrebbe vedervi tutti uniti a lottare per degli obiettivi, per avere gli stadi migliori invece di dividerci. Un po' di ragione me la dà o no? Ma no, io le, so, guardi, no Pier, io un po' di ragione non gliela do, poi storicamente ci sono stati magari errori, coperture anche politiche, è vero che, adesso mi faccio degli amici Pier, fuori dall'Olimpico di Roma succedono cose che altrove non sono tollerate, l'abbiamo detto, e adesso aspettiamo gli amici romani adesso, che ci diranno che ce l'abbiamo con Roma e Lazio, no, ma... però io non vorrei neanche andare avanti con questa contabilità, a me interessa il discorso. Io proprio sono contro la contabilità, perché se siamo qui non usciamo mai, cioè se noi siamo qui a dire però quelli hanno fatto quel coro lì, allora tu puoi fare quel coro lì, ma questo c'è, lì c'è stata quella sanzione, non ne usciamo mai. Qui la battaglia è fra uno stadio civile dove i tifosi possono andare liberi, liberi, perché è assurdo che un tifoso del settore ospite debba rimanere 4 ore ingabbiato fuori dalla partita, è una privazione della libertà prima di tutto dei tifosi. Quindi questa è una grande battaglia di civiltà che riguarda tutti, dobbiamo riuscire a riconquistarci il piacere di andare allo stadio e di poter seguire con passione. Sentivo prima un ascoltatore che diceva giustamente che 20 anni fa c'erano 70.000 persone, a parte che il comunale, allora comunale di Torino era diverso, oggi ce ne sono 20.000, se continuiamo a fare però Milano contro Napoli, Roma contro Lazio, Inter contro Juve, secondo me non ne usciamo. Qui la battaglia è fra chi vuole uno stadio civile, vuole dei servizi di un certo tipo, e chi invece in questo tipo di situazione tutto sommato non ci sta male, ecco. Sì, dicendo che non siamo gli unici, non siamo gli unici nemmeno, questa è una battaglia che io cavalco, a parlare di arbitri, saluto Paolo Condò, inviato della Gazzetta dello Sport, ciao Paolo, buonasera. Ciao Giovanni, ciao Pierluigi, come va? Come va la Triestina prima di tutto, perché poi siccome anche Condò ha un campanile importante, oggi a Trieste si è giocato Cagliari-Inter, però dai, parliamo del derby di Madrid. Sì, campo di Trieste oggi inguardabile, una mezza piscina, tu sei credo a Madrid ancora. No, io sono a casa, preparo Arsenal-Napoli, il mio prossimo impegno. Ci vediamo lì. Ma scusa, una parentesi, adesso parliamo di Madrid, perché vedi questo discorso, ci sono i tifosi che chiamano, allora c'è quello del Milan che ti dice che quelli del Napoli hanno cantato Milano in fiamme, secondo me non ne usciamo più. Ci vuoi raccontare come sono, tu che sei il massimo viaggiatore, sei freccialata di trasferte, come sono gli stadi all'estero e perché i tifosi italiani si meriterebbero servizi, stadi migliori, la libertà di poter uscire dallo stadio 5 minuti dopo senza problemi? Ci vuoi raccontare questo in un minuto? Sì, no, in un minuto. Ci sono dei paesi non li voglio definire del terzo mondo naturalmente perché non lo sono, ma ci sono dei paesi nei quali i derby sono ancora peggio da noi. Per esempio Valderzenga, quando racconta il derby di Belgrado, lui era allenatore della Stella Rossa, i due stadi sono a circa 300 metri di distanza, e dice: quando giocavamo il derby in trasferta noi ci cambiavamo nel nostro stadio, ecco, poi si andava con un pullman ultra blindato, si facevano quei 300 metri e a fine partita si andava a fare la doccia nel nostro stadio, perché altrimenti l'incolumità non era garantita. Lo stesso, io ho visto diversi Boca Juniors River Plate, il super classico argentino, e anche lì vi raccomando, ci sono delle sensazioni da cuori forti, sì, anche fuori dallo stadio prima della partita. Però invece per il c'è resto, l'altro mondo. Esatto, per il resto c'è tutto l'altro mondo, a partire dall'Inghilterra, dove spesso fanno casino fuori dall'Inghilterra, ma dentro i confini inglesi sono tantissimi scolaretti assolutamente ben educati. C'è la Spagna. La Spagna, c'è una cosa molto particolare, per esempio il campionato spagnolo. Non so esattamente come sia andato ieri il derby di Madrid, però in generale la presenza di tifosi avversari è infinitesimale rispetto alla nostra. I tifosi non vanno in trasferta. E questo naturalmente depotenzia notevolmente il carico di casino che ci può essere dentro uno stadio. A proposito di scolaretti, Paolo, ho l'impressione che maestro Carlo Ancelotti abbia un po' di difficoltà a farsi seguire dai suoi. Ieri sera io ho visto in televisione, tu eri al Bernabeu, non so se Pierre hai visto il derby di Madrid, diciamo che uscita da San Siro, ho visto il finale, sì. A Reale è anche andata bene perdere 1-0. Diciamo che l'Atletico Madrid per la prima volta in 10 anni costituisce un'alternativa credibile al duopolio Barcellona-Real Madrid. Con un budget, Paolo, che è un decimo, un ventesimo? Un budget che è un decimo, e continuando a vendere, perché loro ogni anno vendono, se vai a vedere le punte che sono state vendute in questi anni, da Torres ad Agüero, da Forlan a Falcao, loro continuano a pescare questi giocatori, inventarli e rivenderli con enormi plusvalenze. Però stavolta da una parte hanno preso David Villa, che naturalmente ha molte cose da dimostrare dopo il sostanziale fallimento del Barcellona, e dall'altra c'è questo Diego Costa che io ieri su Twitter accostavo a Cantona, sia per la prestanza fisica e per il fatto che non è certo uomo che si faccia mangiare in testa dai tifosi dagli stopper avversari, e dall'altra per il carisma. Ha un fortissimo carisma, ha segnato il gol decisivo. Secondo me l'Atletico Madrid quest'anno può essere maturo per stare fino alla fine lì, poi non ti dico che vincerà, però potrà stare fino alla fine lì. Il nostro amico Carletto è abbastanza nei guai. Ha un credito, io immagino ancora, se non illimitato, un credito notevole con Florentino Perez, col mondo del Real Madrid, però oggi i giornali di Barcellona titolavano con quel 5 in grande evidenza, sono i punti di distacco del Real Madrid dal Barcellona, e per chi conosce le dinamiche della Liga, se non sono una sentenza, si avvicinano. Certo. Sì, non sono una sentenza, però è un campionato dove le prime fanno più di 100 punti, il che significa che quando tu vai sotto di 5 punti, cioè il Barcellona è difficile che perda punti al di là degli scontri ultra diretti, e quindi tu sei già attardato, ma soprattutto non c'è ancora lo straccio di un gioco condiviso un po' da tutta la squadra, perché il mercato, che è stato a mio parere abbastanza dissennato con questa ricerca isterica di arrivare a Bale, che è un bravo giocatore ma certo non vale i soldi che è stato pagato, dall'altra parte ti ha portato alla cessione di Ozil, che per me è un campione, e poi precedentemente era stata fatta quella che per me è la follia dell'anno sul mercato europeo, della quale ha goduto il Napoli, e siamo tutti molto contenti che ne goda il Napoli, cioè la cessione di Higuain è molto più forte di Benzema. Però voi sapete che Benzema, perché Higuain era stato acquistato dal presidente Calderon, tra l'altro l'operazione era stata inseguita e voluta da Franco Baldini. E quindi non poteva essere buono per Perez, era arrivato il momento di cambiare. Esatto, e Perez invece aveva preso poi Benzema e aveva raccomandato, che è un ottimo attaccante anche Benzema, ma non vale Higuain. E però fra i due alla fine quello che è rimasto lì è Benzema, e sono certo che Carletto avrebbe di gran lunga preferito Higuain. Mi è appena arrivato da un'ottima fonte, magari proviamo a fargli anche un colpo di telefono, la notizia che Mancini dovrebbe essere veramente a un metro dal Galatasaray, 4 milioni e mezzo per 2 anni con l'opzione per il terzo. Come lo vedi, Paolo? Ma guarda, io ci ho parlato proprio 2 giorni fa con Roberto a proposito di questo argomento. Lui ha aveva una grande remora, che era quella: il Galatasaray è una squadra, è un cimitero degli elefanti, cioè giocatori che hanno fatto grandissime cose, pensate soltanto a Drogba e a Sneijder nella loro carriera. Drogba poi oltretutto c'è anche un'età, Sneijder sarebbe ancora di mezza età, però sono anni ormai che non gioca ai suoi livelli, vanno lì a fare un ultimo contratto ricchissimo e sostanzialmente a finire, ecco. E questa è una situazione che per un allenatore che è ancora in carriera, che vuole ancora molte cose della sua carriera, con Roberto Mancini non è una grande situazione. Sì, pare però di cogliere che ci sia non una piena convinzione, però i soldi sono tanti, Pier, comunque Roberto probabilmente ha voglia anche di ritornare in gioco. Sai, in questi casi delle volte aspettare può essere conveniente, perché sicuramente qualcos'altro durante la stagione forse di più interessante può venire fuori, però insomma lui avrebbe voluto una delle due francesi, e cioè Paris Saint-Germain o Monaco. Tra l'altro mi risulta che il Monaco, Paolo, l'avesse cercato, cioè c'è stato più di un sondaggio in estate, quindi anche il Paris Saint-Germain, anche col Paris Saint-Germain c'è stato un qui pro quo nel quale c'era di mezzo Leonardo, che non ha favorito il contatto tra Mancini e lo sceicco, ecco, diciamo questo dalle fonti che ho consultato. Comunque è una cosa. Poi Mancini aveva anche un altro pensiero, che era una nazionale africana per andare a giocarsi il mondiale. Non gli sarebbe dispiaciuto un'esperienza mondiale, succede sempre prima dei mondiali, no? Adesso tra ottobre e novembre ci saranno gli spareggi per tutti. Sì, qualcosa si libera, qualche panchina si libera. Qualche panchina africana di buon livello, tipo, non so, faccio un esempio, la Costa d'Avorio, ecco, generalmente poi esonera l'allenatore che è lì in quel momento per chiamare un grosso nome europeo, no? Per fare se vogliamo è anche una scelta un po' provinciale. Sì, anche un po' però, di marketing. Però esatto, di marketing così, fanno questa cosa qui. E Mancini aveva pensato, però se adesso è a Istanbul è evidente sì, che gli argomenti del Galatasaray sono stati più forti. C'erano almeno 4 milioni e mezzo di euro di argomenti, accordo di 2 anni, comunque credo si farà tutto dopo la partita. Ci vediamo a Londra con Condò, è una missione, lo sai, no? Ecco, perché uno può sbagliare una telecronaca, può sbagliare un articolo, ma non può sbagliare una scena dopo la partita. Scusate il momento gastronomico, salutiamo anzi il gastronauta che sicuramente ci starà ascoltando qui a Radio 24. Grazie a Condò. Grazie a Condò, sì, lo liquidiamo perché liquidiamo, c'è ti liquidiamo Condò, capito? Buona giornata. Traffico alla Cruciani, fai lancia il traffico alla Cruciani. Traffico. Tutti convocati. 14-9 per la Russia nel secondo set, Russia avanti 1-0 nella finale europea di Copenaghen. Non va benissimo, Pierre. No, non bene. Lo sto vedendo e ci capisco anche poco, però sì, guardo il punteggio, 14-9. Sì. 14-9, sì. Stefano da Milano, 800-24-0024, buonasera. Buonasera. Milano? Sì, prego. Eccoci qua, no, io volevo intervenire sulla questione del cori razzisti negli stadi, sì, eccetera, eccetera. Cioè, secondo me quello che sta venendo fatto è prendere una cosa però dalla parte sbagliata, cioè tutti questi divieti degli sfottò riferiti alla città, prima si parlava di Napoli, di Milano, eccetera, eccetera. Cioè, secondo me è più una mossa di buonismo che però in realtà non serve a niente. Sì, io non ci trovo molto di buonismo, ma abbiamo detto. Ti spiego perché. Prego. Perché, cioè, non serve... Io da che mondo è mondo, il razzismo e tutte questa serie di pregiudizi si combattono con una cosa che è la conoscenza e l'educazione. Assolutamente. Vietare di sostenere la squadra e un po' anche in questo lo sfottò dell'altra squadra, entro per carità determinati limiti che secondo me non sono assolutamente stati superati nella partita suddetta. Secondo me è veramente prendere una situazione dalla parte sbagliata. Sì, però pensare, Pier, che sia lo stadio a poter educare delle generazioni su cos'è il razzismo, cosa non è il razzismo, ho l'impressione che stiamo parlando del nulla. Fabio da Milano, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, ecco, parlando di questo, io volevo parlare proprio dell'esperienza di ieri, dove ho visto la partita Genoa-Napoli. Ero con 2 bambini di 4-7 anni, c'erano tante famiglie, tanti bambini, gruppi con maglie, vabbè c'è il bengevellaggio, lo sappiamo, però comunque, ecco, fosse sempre così sarebbe bello. Sarebbe bello, vero Pier? Fosse sempre sarebbe come tra Genoa e Napoli. Mi viene anche da dire che i gemellaggi sono bellissimi, ma oltre ai gemellaggi sarebbe bello che ci fosse una civiltà condivisa, cioè sarebbe bello che ci fossero delle condizioni comunque di sicurezza anche quando non c'è il gemellaggio. Poi sappiamo che insomma i rapporti fra Napoli e Genoa sono rapporti che durano 25 anni e per carità tutte le volte che succede è colorato ed è bello poterlo raccontare, però quello che al quale dobbiamo ambire è la serenità sempre, non soltanto quando giochi contro una squadra che è gemellata con te. Quindi questo è il vero salto di qualità. Il discorso che faceva prima, sicuramente sono cambiate le convenzioni. Tante volte abbiamo sentito gli slogan in questi anni che oggi sarebbero puniti dal giudice sportivo. Allora, o ci fermiamo, ci rinfacciamo gli uni con gli altri, quello di Milano contro Napoli, eccetera, eccetera, e viceversa, tutto questo, oppure approfittiamo per fare un salto di qualità e per capire che forse possiamo vivere lo stadio non come un teatro, non come un teatro lirico, perché a noi il calcio ci piace colorato, quindi con lo sfottò e l'ironia, ma evitando di offendere in maniera gratuita gli uni con gli altri. Ripeto, non è un discorso che riguarda solo Napoli, perché Milano in fiamme l'ho sentito con le mie orecchie centinaia di volte, quindi chiaramente insomma, Milano in fiamme e lasciamo stare tutto il resto, siamo anche a Milano, se no cominciamo noi a fare la lista, Pier. Sono le 18:51, siamo riusciti a non parlare della Roma, che invece è importante parlarne perché la Roma stasera può tornare in vetta. Una partita complicata perché il Bologna ha dimostrato contro il Milan che sta bene, è una squadra che comunque ha talento offensivo molto importante, e poi sai, il fatto di giocare la domenica sera con tutte le altre a parte l'Inter che hanno vinto, insomma ti mette un po' di pressione. Credo che stasera sia un ulteriore test di maturità per una squadra che fino a questo momento è stata proprio freddissima, cinica. Questo fatto che vince le partite nel secondo tempo, che non si disunisce mai, che non si fa mai prendere dal panico, è veramente qualcosa di molto forte. Stasera ci sarà grande entusiasmo, una grande spinta. Per me è veramente un bel test di maturità quello col Bologna. Sì, sicuramente, perché la Roma comincia a giocare anche con sulle spalle il peso della responsabilità. Poi c'è Rudy Garcia, fantastico. Secondo me è il personaggio, almeno fin qui dell'anno, lui con i suoi aforismi, a me ricorda Boskov un pochino, anche col suo telefono, col suo telefono, la prima partita. lo sentiamo, sentiamo un po', eh. Domani utilizzeremo, no? Un piccione viaggiatore. Un derby non si gioca, un derby si vince. No, solo abbiamo rimesso la chiesa al centro del villaggio. È un detto francese. L'appetito arriva mangiante, si dice anche in Francia. Anche in Francia si dice, e mi piace, va bene. Meraviglioso Rudy Garcia, l'appetito vien mangiando. Tra l'altro, secondo me non è all'altezza di Napoli e Juventus, è la Roma, no, che si è fatto questa striscia, proprio, dovesse anche andare avanti, però secondo me ad esempio la Roma è un grosso problema per il Milan, sì, per l'Inter, per secondo l'Inter, me è subito di rincorsa. Io vedo Juve e Napoli davanti a tutti onestamente, e vedo poi queste 3-4 squadre dietro. Il Milan è partito chiaramente ad handicap, ci metto anche la Fiorentina, però vedo Napoli, Fiorentina, Inter e Milan, se riesce a recuperare, che sono subito dietro. La Lazio ancora un filino dietro, ma insomma può rientrare in questo tipo di gruppo. No, è divertente Garcia, perché lui storicamente partiva lento, aveva le partenze alla Allegri in Francia, e quest'anno però evidentemente gli hanno fatto capire che c'era talmente tanta disperazione per gli ultimi due anni, che erano stati molto complicati dal punto di vista ambientale a Roma, che forse anche la preparazione doveva cambiare. È riuscito a dare una personalità incredibile a questa squadra. Sì, ho l'impressione che potevano spiegarlo anche ad Allegri, a proposito di partenze lente. Non è sempre facile, però non è sempre facile. Noi siamo qui seduti, ci divertiamo, loro sono lì, può anche capitare di sbagliare partenza. Ci chiedono su Twitter se Mancini contro la Juve ci sarà in panchina. Se firma oggi e se l'accordo è già... Ma secondo te a me risulta che in questo momento lui sia a Istanbul di e stia chiudendo subito la Juventus. Beh, è una trasferta difficile. È una trasferta difficile, ma insomma, se ti pagano e se fai un accordo è per farti stare in panchina già la mercoledì, sarebbe un motivo in più assolutamente giornalisticamente di interesse per questa partita che la Juve deve portare a casa, perché se batte, e secondo me lo può fare, il Galatasaray, poi anche il girone può andare in discesa e tutto si può sistemare meglio anche per il campionato col turnover. Siamo in fondo, Pier, tu domani torni e da domani io domani torno, domani sera c'è Tiki-Taka, fammelo ricordare, a mezzanotte su Italia 1 dopo Colorado, abbiamo una marea di cose, ma ne parliamo domani. Sì, perché alle 14, dalle 14 alle 15:20, perché sì, tutti convocati dal perché lunedì lo famo strano, lo famo strano, come diceva Verdone, è bello questo, no? Orario, 15:20, ci piace. Ma c'è il traffico, perché a me piace tanto. No, il l'hanno tolto il traffico. Vabbè, per ma allora mi rimetto perché no, io ci tenevo al traffico. Allora, alle 14 domani tutti convocati, Pierluigi Pardo, Carlo Gento, ovviamente padronissimo di casa, poi avrete tempo tutta la settimana. Io invece ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Valeria Bernardi e Paolo Corleoni, che si sono alternati in regia. Un saluto anche da Giovanni Capuano, grazie Pier. Bella. Appuntamento comunque domenica. Assolutamente, qua siamo.